Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Finale in Australia, vittoria Roland Garros, quarti a Wimbledon e qui una vittoria, cioè un anno incredibile. E abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo, che è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas. Tutti convocati di Carlo Genta. Tipo Mila, perché sono italiano? Ciao a tutti, Franco Piantanide, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, almeno per il primo tempo, poi vediamo. 800240024, come al solito siete tutti convocati per ogni vostro pensiero sportivo. Oggi il mio primo pensiero sportivo va a Parigi, perché il campo imperiale del Roland Garros sembra ormai diventato meravigliosamente il cortile delle nostre signore. Prima Francesca Schiavone, ora Sara Errani, tre finali consecutive, la prima vinta dalla Schiavone, la seconda persa dalla stessa Francesca, poi è stata Sara a perdere la finale, ieri invece Sara Errani ha battuto la Radwanska, numero 4 del mondo, polacca. Possiamo paragonarla, se vogliamo utilizzare un improprio parallelo pugilistico, a Sugar Ray Leonard. Adesso tocca a Sara, tocca Tyson, che è Serena Williams, ma andiamo incontro a Tyson con fiducia, perché non abbiamo più paura di nessuno. Partita difficile, durissima, ma già lo sapevo, quindi mentalmente ero preparato a un match complicato. Non è stato facile, c'era tanto vento da una parte, quindi bisognava calcolare anche quello. Comunque Agnieszka è una giocatrice molto intelligente, anche lei se n'è accorta subito di questo fattore, però sono contenta, penso di aver giocato una bella partita e penso sia stata anche una bella partita da vedere. Più difficile la pressione, la tensione di tutte le partite, dal primo turno fino ad oggi ce n'è stata tanta, forse oggi è stato il giorno che ce n'era un pochino di meno, però sono contenta di come sono riuscita a gestire questa tensione. Sicuramente sarà molto dura, ovviamente è la più forte giocatrice al mondo, una potenza incredibile, quindi sarà dura, però ci proverò. E ricarica questa canzone, spero che carichi anche Sara Errani nel confronto con Tyson. Serena Williams, che non sembra conoscere declino, almeno in certi tornei. Giusto per darvi un'idea, poi parleremo anche di calcio, di Mourinho, della successione alla panchina del Real Madrid, parleremo di basket, di squalifiche, di pasticci, come sapete quelli di Siena, Hackett e Bobby Brown, prima squalificati e poi riammessi a una partita determinante per Siena, playoff di basket mai così interessanti, e parleremo di tutto quello che vorrete voi, perché io vi convoco tutti i giorni per esprimere il vostro pensiero. 800240024. Intanto Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport e mia voce preferita sul tennis. Ciao Vincenzo. Grazie, sei gentilissimo. Senti, sorprendenti, almeno per me che guardo dall'esterno, i tempi del passaggio del testimone. Schiavone, Pennetta, l'era della Schiavone a Parigi, una vittoria, una sconfitta, ora Sara Errani. Sembra che davvero quella terra rossa sacra di Parigi sia diventato il nostro cortile di casa. Beh sì, è esaltante questo per noi. Non possiamo parlare di scuola, perché tutte e due le giocatrici non sono figlie di una scuola, non c'è una scuola italiana del tennis, né maschile né femminile, ed è anche giusto così, perché questo è uno sport veramente mondiale, universale, abbiamo campioni di tutte le razze, di tutti i continenti, e continuamente ce ne sono e ce ne saranno, e questa è una grande qualità di questo sport. Però possiamo parlare sicuramente di tradizione a questo punto, perché noi impariamo a giocare sulla terra rossa, che è la superficie più difficile, piccola che permette di fare più cose e che però ti costringe anche a saper fare più cose, che è il limite di gran parte di questo tennis, che il giorno in cui non ci sarà più Federer sarà di una noia mortale fino all'arrivo di un nuovo Federer. Sì, Federer è fatto a pezzi da Tsonga, parentesi. Sì, perché questo tennis non è il suo, non c'è niente da fare. Tu Federer trovi il giorno in cui non servi al mille per mille. Io sono convinto, da Roma l'ho scritto, l'ho ripetuto, che lui anche a Roma non stava bene, aveva un mal di schiena, non serviva bene lì, e senza servizio lui perde molto, come perde chiunque, ma ancora di più lui, che sul servizio poi basa tutto il resto del suo gioco. E non sta bene secondo me neanche Nadal, e che ha un problema al ginocchio che si trascina. Io non ho mai visto Nadal giocare sulla terra rossa senza scivolare, per esempio. E quindi ieri, per esempio, Nadal Federer ha giocato con un corpetto, insomma, chiamiamo la maglia della salute, è abbastanza stretta, chiamiamola come la maglia Gibù, ma insomma non è bello, no? Ecco, è un tennis che è un pochino troppo duro per lui fisicamente. Beh, Nadal Djokovic finale oggi? Io direi di no, perché questo Tsonga intanto, sempre che batta Federer, che è un osso duro per tutti, e vedrai che avendo risparmiato anche energie contro Robredo e non riuscendo mai a arrivare poi in finale, lui avrà una gran voglia di arrivarci alla finale del Roland Garros. Però io credo che Tsonga abbia le possibilità di fare veramente la sorpresa, e io non sono neanche convinto che Djokovic batta As, poi magari il risultato mi sconfesserà platealmente, ma As col sole qui sopra su una superficie che è abbastanza veloce, io credo che possa anche fargli uno scherzetto a Djokovic, che sulla terra non eccelle. Sì, Vincenzo, però io ho una fissa, cioè secondo me il valore assoluto di uno sportivo, di una squadra, è data non tanto dai risultati ma dalla continuità con cui si raggiungono le finali, e allora abbiamo raggiunto 3 finali in 3 anni, adesso puntiamo alla quarta finale in 3 anni su un court sacro come quello di Parigi, e questo secondo me significa qualcosa, al di là del fatto che poi si vinca o si perda. Certamente, è la grande soddisfazione di queste ragazze, tutte le ragazze italiane, è proprio questa, la loro continuità, la loro serietà, esatto, l'umiltà, il senso del lavoro, l'intelligenza, la capacità di sacrificio, la capacità di mettere via qualsiasi altra cosa della propria vita per allenarsi in un modo veramente tremendo. Non dimentichiamo che noi stiamo parlando, sia nel caso della Schiavone sia nel caso della Errani, di due ragazze di 1,70 l'una e 1,64 l'altra, cioè potenza non ce n'è. E quindi devi sopperire con mille altre cose, gambe, cervello, colpi particolari, cioè il repertorio che ha fatto vedere ieri la Errani è molto simile, con le debite proporzioni di gioco, a quello che ha fatto vedere la Schiavone, cioè un gioco completo dove c'è tutto, e questo è proprio la donna italiana anche, no? Questa donna piena di qualità, frizzante, che ti colpisce con gli occhi, ecco, noi colpiamo in altro modo. Sì, noi colpiamo in altro modo. Posso farti una domanda difficile, per chiudere, sì, vai, prima di salutarti? Vai, allora, chi fa il ballo? Il ballo che storicamente domani. Il ballo, il gran ballo, sì, il gran capito. Beh, lo sai, tu lo sai, ascoltatori, sì, pure il gran ballo, sì, il gran galà che chiude il torneo parigino in abito da sera, il vincitore gioca con la vincitrice. Buttiamoci. Io chiudo gli occhi e vedo due neri. Vedi due neri? Sì. Vedo nero. Vedo Tsonga e Serena. Tsonga e Serena, dai, ho capito. Eh? Sì, per la nostra Errani la vedo molto, molto difficile domani. Io sono convinto che anche se darà il massimo, e credo che ci proverà, anzi sono sicuro che ci proverà, io credo che se non c'è una valida collaborazione da parte di Serena non ce la possa fare. E Serena ha già avuto un'allerta ieri con uno Kuznetsova. Non l'avesse avuto, la Errani avrebbe avuto, sai, c'è sempre in un torneo una partita no, una partita che non ti riesce, e poteva essere quella di domani. Ma avendola già avuta la Serena contro Kuznetsova, io penso che per Sara sarà molto, molto difficile, se non praticamente impossibile, perché i primi due colpi servizio e risposta sono massacranti. Grazie Vincenzo. Spero che tu ti sbagli in maniera grossolana come faccio io tutti i giorni quando faccio i pronostici. Spero anch'io di cuore. Ti abbraccio forte. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, grazie Vincenzo Martucci. Ho chiesto per questa previsione di Vincenzo Martucci un hip hop. Non ce l'abbiamo al momento, torniamo dopo il traffico e aspetto voi. 80024 0024. Tutti convocati. Allora, per l'hip hop ci attrezziamo con le previsioni di Vincenzo Martucci, ma adesso aspetto voi 80024 0024, anche perché tra poco andiamo in Spagna, che ha un filo diretto con la Francia, che già potete immaginare se avete sufficiente fantasia. Roland Garros, Paris Saint-Germain, Real Madrid ci porta da Sara Errani a un altro italiano che si chiama Carlo Ancelotti. Roberto Davarese. Sì, buongiorno. Io volevo chiamare per la partita per il basket. Lo sapevo, giuro che lo sapevo. Siena-Varese. È stato uno di quelli di dove mi è piaciuta Siena, ho tifato sempre in Eurolega Siena, però secondo me quello che è successo oggi non ha niente a che vedere con lo sport e non c'entra niente, cioè, sì. Nel senso, allora io lancio un appello, poi ne parliamo in maniera più approfondita. Guai a chi ci rovina questi playoff, che sono, esatto, che sono un, esatto, tesoro, e che sono quanto di più emozionante abbiamo vissuto negli ultimi almeno, perfetto, 7 anni. Quindi nessun tocchi questi playoff. Esatto, io sono anche della regola che le squalifiche non devono essere scontate nelle partite successive, perché è giusto, però ci deve essere un regolamento prima. Allora, sì, vabbè, questo è un discorso vecchio che possiamo applicare, sì, ad ogni sport italiano. Però penso che abbia perso un'occasione oggi. L'ha persa perché sono stati commessi almeno 5 errori in una singola ipotesi. Allora, in quella situazione, multa salata che pagano i giocatori, però nessun rovini quello, esatto, che sta succedendo, perché, esatto, perché dal punto di vista sportivo è un insulto, è una bestemmia, è qualcosa che non deve capitare, perché stiamo vedendo finalmente dei playoff che ci tengono incollati alla televisione, che riempiono i palazzetti, pur con queste serie da 7 che adesso possono sembrare meravigliose, ma che io continuo a considerare qualcosa di anacronistico, perché vedo giocatori giocare sulle ginocchia, meravigliosamente sulle ginocchia, però nessuno di esterno tocchi questi playoff, nemmeno il giudice sportivo. Su questo siamo d'accordo. Lei ha ragione anche sulle 7 partite, però devo dire che alla fin fine sembra che sia, vedendo i risultati adesso, sembra che stia dando anche i suoi frutti. È qualcosa di diverso forse anche per il nostro basket. E proprio per questo che dico, perché andarlo a rovinare con delle stupidate? Perché questo qui è una grossa stupidata che è stato fatto e che danneggia, che poi andrà a creare anche dei malumori nei tifosi. Parliamo sempre di questi tifosi che sono sempre irascibili, che sono rissosi, ma dall'esterno vanno a dargli anche... Sì, tifosi, ma tifosi irascibili, attenzione Roby, tifosi irascibili, tifosi sull'orlo di una crisi di nervi, tifosi troppo attenti alle questioni arbitrali. Stiamo vedendo un magnifico spettacolo sportivo, uno spettacolo sportivo di incredibile intensità agonistica. Quando c'è così tanta intensità agonistica, allora bisogna accettare che questa intensità contagi anche gli arbitri, non però il giudice sportivo, perché quello che è successo ieri è inammissibile. Franco, provincia di Varese, parliamo secondo me dello stesso argomento. Sì, ciao, penso proprio di sì. Sono da Varese, cerco di non essere fazioso. Sono molto combattuto. No, ma cerca di essere, ma puoi anche essere fazioso, tanto siamo, come ho detto mille volte, politicamente non corretti, quindi... Ma te lo dico, secondo me è andata così. La Lega prima ha dato le squalifiche per tirar su i 3.000 euro per uno della multa. Dopo, fare cassa. Sì, dopo gli hanno detto, guarda, quei due lì erano un attimino già diffidati, non è che sono accorti di aver fatto la scemata. tra l'altro sbagliando anche il secondo comunicato, perché non sarebbe stata una giornata, ma avrebbero dovuto scontare anche quella abbonata precedente, sì. Sospesa. Però cavolo, hanno fatto far ricorso a Siena in ritardo, perché andrebbe fatto un'ora dopo la prima comunicazione, gliel'hanno abbonata, alla fine Varese, che non ha fatto ricorso, senti, paga Franco, 3.000 euro. Senti Franco, tu allora, proviamo a essere sportivi, ma nel senso più completo del termine. Tu vuoi giocare contro Siena, con Varese... Bravo, al completo. Bravo, ma vuoi giocare contro, vuoi giocare e battere Siena al completo per un grande spettacolo sportivo, ma è quello che penso anch'io. Se poi Bobby Brown mi fa il canestro a tre punti in faccia, perché più bravo lui, più brava Siena. Però io non cosa, io l'altro giorno ero a palazzetto, ti dico che non c'è stato assolutamente niente da squalifica. Ma sì, ma la allora, cosa durante la partita, ma tu vuoi mettere l'adrenalina e la stanchezza, questo miscuglio di adrenalina e stanchezza che produce una serie da sette partite? Certamente. Poi devi anche usare il granus salis di capire la condizione psicofisica dei giocatori. C'è da Tome che gioca con le infiltrazioni, ci sono giocatori che sono sulle ginocchia, che vedi che danno tutto quello che hanno e anche di più, e in questo sono meravigliosi. Se sei un arbitro, se sei un giudice sportivo, devi diventare sportivo anche tu e capire le regole del gioco. Questo è il mio pensiero. Condoglianze, Filippo Maria Ricci. Ah, no. Ma perché condoglianze? Oh, sì, ti hanno tolto Mourinho. No, va bene così. Basta, dai, un triennio va bene, è il suo record praticamente, quasi. Va bene così. Non sei convinto. Ti faccio sentire. No, anche non perché sei poi, convinto, viene... ti conosco bene, non sei convinto. Dai, su, sarei incazzato anch'io. Ti faccio fammi sentire. Ti faccio sentire una cosa. But now I can say I'm one of you. And that's make a little bit of have a difference. I never hide that in football I had in my career two great passions, Inter and Chelsea. And Chelsea is more than important for me. Traduci. Nel football, nel calcio, io ho due grandi passioni, l'Inter e il Chelsea. Frase pronunciata 24 ore dopo aver lasciato il Real Madrid. È la stessa Inter che lui sempre porta nel cuore, nonostante non abbia nemmeno festeggiato la Champions. Filippo, è la sua pensione, come l'Inter oggi leggevo ha garantito la pensione a Zanetti e a Samuel, prolungando il contratto meraviglioso centrale argentino all'INPS. Praticamente l'Inps. No, senti, Mourinho ha detto anche un'altra cosa, scaricando Cristiano Ronaldo non mi ascoltava più. E sì che parlano la stessa lingua. Sì, appunto Pelota, un'intervista fatta sabato scorso. Ce n'ha per tutti, insomma, è andato via in maniera molto amara e... Insomma, attaccare Cristiano Ronaldo mi sembra veramente un'eresia. Gli ha salvato tutto quello che gli poteva salvare, soprattutto in questa stagione, ma in generale ha giocato benissimo per lui. E lui dice sì, noi gli abbiamo fatto migliorare il rendimento. Non si dimentica che Cristiano Ronaldo ha vinto il pallone d'oro quando era giocatore del Manchester United e non quando era giocatore del Real Madrid. Mourinho ha una memoria troppo selettiva. Ultimamente in tutti i suoi interventi, se vai a vedere, c'è un'inesattezza, c'è un errore, c'è una deviazione della realtà, sempre, proprio sempre. Mm. E questo vuol dire tanto. Appunto, lui fa lì e si mette a glorificare le tre semifinali, cosa che per un vincente non è granché, però insomma a questo punto siamo arrivati, e si dimentica diciamo quello che Del Bosque ha fatto con Real Madrid. Mm. Adesso si mette a dire no, Casillas non poteva giocare perché non si allenava, e poi ci sono le immagini di Real Madrid Television in cui si vede che Casillas si allenava e così. Mm. Piccole cose. Adesso, insomma, attaccare Cristiano Ronaldo mi sembra veramente, insomma, chi non ha apprezzato le critiche, perché Mourinho dice che Ronaldo non gradiva le critiche, mi sembra il contrario, perché l'anno scorso quando Ronaldo osò criticare, anzi due stagioni fa, criticare la disposizione tattica di Mourinho in Champions, la partita dopo finì in panchina. Mi ricordo perfettamente. Quindi insomma, se c'è qualcuno che, come si dice a Roma, rosica... Un'ultima cosa, Mourinho adesso dice queste cose: ho due grandi amori, l'Inter e il Chelsea. Ieri Snyder, che Mourinho vuole al Chelsea, ha detto: Mourinho ama solo tre cose, le sue figlie, sua moglie e il Chelsea. Capello, che dice: non ho avuto alcun contatto con il Paris Saint-Germain, ma nella vita mai dire mai. Un giorno, se ben ti ricordi, in Italia Mourinho parlò di prostituzione intellettuale, leverai quell'intellettuale. Ma sì, ma insomma, ma è chiaro. Ma è giusto così, ti rispondo con un esempio. Falcao se ne va al Monaco, l'altro giorno ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa, non è riuscito a farla perché piangeva di rotto. Vabbè, prima cosa, vorrei piangere anch'io con tutti quei soldi, comunque va bene, e questo lasciamolo perdere, diciamo che è facile dire così. Ma allora perché sei andato? Dovevi andare via, l'Atletico aveva bisogno di soldi, tu avevi bisogno di soldi, però cioè, mi sembra, ormai è così, il calcio è questo. Ma prendiamoli così, ormai diventati dei grandi attori e tra un po' chiederanno il cliché per queste loro recite. In un secondo, stai aspettando Ancelotti? Sì, arriva. Ancelotti. Non ci sono dubbi. Seconda scelta, anche se ha detto vado in vacanza, Ancelotti. Può andare in vacanza, perché giustamente va in vacanza perché è tranquillo, no? Sì, certo. Quindi Carletto quando arriva? Per me inizio settimana prossima, adesso tra giovedì e venerdì si dovrebbe definire. Ieri c'è stata la prima telefonata tra i due club. Secondo me, per come la vedo io, alla fine il Real Madrid per la terza volta consecutiva rischia di pagare l'allenatore, ha già pagato Pellegrini per liberarlo, pagò l'Inter per liberare Mourinho, rischia di fare lo stesso adesso con Ancelotti, o se no magari con un giocatore, però per me il prossimo allenatore sarà Ancelotti. E per quello che ti dicevo, che sì, non è un funerale, se veniva Anches magari sì, però se viene Ancelotti io sono più che contento. Io anche almeno ho una squadra per cui fare il tifo l'anno prossimo. Grazie Filippo, esatto. Ti abbraccio. Ciao a voi, ciao. Tutti convocati. Ragazzi, se non avete cognizione di... scusami, dovevate entrare voi, fa niente, però mi fa imbizzarrire. Se non avete cognizione di causa, evitate di scrivere stronzate, perché abbiamo una semifinalista a Parigi e voi continuate a parlare di calcio. Sveglia, Gabriele da Milano, ma sveglia tu, perché abbiamo aperto il nostro programma con Sara Errani, semifinalista a Parigi. Siete tutti convocati su ogni sport per dire la vostra ogni giorno, e più di così cosa devo fare? Presidente, lavoriamo qui, non è che stiamo... Lavoriamo? Non mi mette le mani addosso, presidente, mi fa male! Non è il presidente del Borgo Rosso Football Club, ma è il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, che ha aggredito un giornalista ieri, nervi tesi. Come sapete, prosegue la trattativa per la cessione del Genoa. Preziosi ieri, al momento di questa trattativa, era in contumacia, perché in tribunale a deporre sulla questione delle magliette levate nel derby, altro capitolo rivedibile e ridicolo, se vogliamo, del nostro calcio. 800 24 00 24, numero verde. Enzo, provincia di Siena. Buongiorno. Senta, io volevo dare un pochino dell'Inter e dire che quel signore che aveva prima, che ha fatto quella previsione del tennis, della finale. Tsonga, Serena Williams, che ballano. Serena Williams. Ecco, che ballano. Io invece dirò che ballano in due. Sì. Cioè la nostra Errani. Sì. Con lo spagnolo Nadal, che è il migliore del mondo, dopo lo svizzero. Nadal, Enzo, posso dire, io gli pronostici non estruscio uno dal 76. Non estruscio uno dal 76, tanto mi prendono. Mi piglia per culo da tutta Italia su questo punto di vista. Però io tra Nadal e Djokovic, io vedo Djokovic, anche perché Nadal non sta bene, e poi perché, non so, tifo Djokovic, quindi. Però io voglio sentire una cosa, giusto per dare ragione a Vincenzo Martucci e per caro Enzo dalla provincia di Siena, esorcizzare questo pronostico che vede il gran ballo finale, il gran galà tra Tyson, Serena e Tsonga. Allora, cosa ballano? Cosa possono ballare? Ballano la macumba. Ma che macumba, ballano questo, dai, via. Cause I'm flossing that. I ain't a wrestler, but I put your bitch in the Boston crab. I talk money cause it costs a brag. Around here, bitches walk around with hair that the horses had. Rap to get your face stuck on them bricks. I don't really like the exercise, but I push up on the bitch. Y'all sweet like. Questo vanno a parlarlo al Jimmy's dopo la serata finale alle 5 del mattino. Andrea, provincia di Livorno. Sì, pronto, buonasera. Ciao. Allora, tanto. Diamoci del tu, perché facciamo prima. Bene, allora, Preziosi non si merita un galantuomo come Nicola, spero che si guardi bene ad andare a Genova. Volevo, riallacciandomi al discorso delle regole dei playoff, sottolineare una cosa che aspetta, che non ho capito. Playoff quali? Di Serie B, ovviamente. Di calcio, sì. Di calcio. Far presente che il comportamento scorretto, sì, e a dir poco fazioso della federazione e della Lega Serie B nei confronti dei due calciatori dell'Empoli che hanno convocati. È stata fatta una cosa che non era mai accaduta. Hai ragione. Poi a Livorno siamo tutti contenti se legge Forum dei tifosi. Tutti volevamo che giocassero sia Saponara e Regini, sì, perché è stata maggior soddisfazione, però è stata fatta una forzatura veramente vergognosa. Guarda, Andrea, io i playoff di Serie B li vedo come il fumo negli occhi, con questo regolamento, con il distacco dei punti. Allora, a me i playoff nel calcio non piacciono per niente, perché secondo me il calcio è uno sport inadatto a una formula che è meravigliosa come quella dei playoff, però la trovo una forzatura incredibile, soprattutto per il regolamento attuale, distacco del numero dei punti, si calcola quando ci sono, quando non ci sono. La formula dei playoff, secondo me, in valore assoluto non c'entra nulla con il gioco del calcio. Secondo me in Serie B dovrebbero semplicemente salire le prime tre in classifica. È chiaro che magari si toglie interesse alle ultime giornate di campionato, ma che vuoi fare? Non è che lo si aggiungi in maniera perversa con dei playoff strutturati in questo modo, che si decidono all'ultima giornata e che portano a queste distorsioni. Quindi io ti capisco, apprezzo quello che hai detto, però io contesto la formula dei playoff di Serie B e contesto in generale la formula dei playoff, che per me sono il sale e il senso dello sport, di altri sport come il basket e la pallavolo, ma non si adattano strutturalmente al gioco del calcio. Allora, si adattano invece perfettamente al gioco della pallacanestro, di cui sono il senso più profondo. Sentiamo Calvani, allenatore di Roma, al microfono di Dario Ricci, dopo che ieri sera ha a sorpresa fatto saltare il banco impossibile di Cantù. Beh, innanzitutto complimenti, le rubo proprio un minuto mentre sta salendo sul pullman. Beh, sì. Coach, bellissimo successo, e quasi nessuno ci avrebbe scommesso, perché avevate salutato il pubblico del Palatiziano, sembrava finita la stagione, altro che. No, da parte nostra no, diciamo che c'era stato un De Profundis da più di qualcuno, dove ormai ci avevano dato per un cadavere che era già freddo, mentre invece siamo ancora belli caldi, siamo vivi e torniamo a Roma per giocare gara 7 e per vincere e andare in finale. La chiave della sfida di questa sera qual è stata, coach? Ma come sempre c'è la verità che è in mezzo. Io avevo detto alla squadra che Cantù probabilmente in forma inconscia un pochettino era già sicura di stare in finale. C'era dopo, giustamente anche dopo aver vinto a Roma, c'era un po', come si dice, un alone di trionfalismo già acquisito e assodato, mentre invece non è stato così, e quindi abbiamo... Ciao Martino. Ciao. No, I go ahead. Scusi, ero con Lunen. E quindi niente, cioè, questo è un aspetto. L'altro aspetto è il fatto che ho detto ai ragazzi che le brutte percentuali che abbiamo avuto due giorni fa a Roma, anche da liberi, tirando da liberi, e stasera la cosa poteva cambiare, avremmo fatto canestro anche da marcati, perché lo sport è così. Gara 7, che gara si aspetta, coach? Beh, gara 7 intanto mi aspetto un palazzetto dello sport che sia stracolmo, con le persone attaccate anche al soffitto, una spinta come giusto che sia, e come abbiamo trovato qui, un pubblico corretto che comunque spinge la squadra. E poi onestamente questa è una grande occasione per tutti, perché qui nella nostra squadra nessuno ha mai giocato una finale scudetto, quindi io per primo, e quindi direi che le motivazioni sono molto molto alte. Sarà una serata stellare per Roma, da una parte ci siete voi e Cantù, dall'altra l'Olimpico USA in Bolt. Beh, noi speriamo di, come dire, di poter dare sulla pagina del giorno dopo un po' più di risalto e di cassa di risonanza a quello che è il nostro impegno piuttosto che quello di Bolt. Tutti convocati. Devo dire che siete veramente deludenti certe volte, perché ogni volta mi fate una testa così, parli sempre di calcio, di queste stupidaggini, ma perché non parliamo di altri sport? Allora, parliamo di altri sport ad altissimo livello, Sara Errani, parliamo dei playoff di basket, che a me e a voi, se vi interessa qualcosa di sport, non siete dei... così, degli uomini delle caverne che credono solo nei corner di Donadoni. Allora intervenite 800 24 00 24, poi non mi rompete più le scatole sul fatto che parli solo di calcio. Non mi rompete più le scatole, perché sennò io comincio a parlare di chi è più forte tra Messi e Maradona. Beh, non c'è gara, è più forte Maradona. Messi, quando vincerà il mondiale con la mia Argentina, allora mi leverò il cappello davanti a Messi. Se no, facciamoci queste seghe mentali per anni e anni e anni, così intervenite, siete contenti e potete criticare il fatto che non parliamo di altri sport. Questa è la casa di tutti gli sport e di tutti quelli che vogliono intervenire. 800 24 00 24. Caro Andrea da Pistoia, io non sono una banderuola, perché ho criticato sempre le serie al meglio delle sette partite e continuerò a farlo per anni e anni e anni. Le serie al meglio delle sette partite in un campionato come quello italiano sono un anacronismo. Mario Boni, posso sfogarmi? Tu sei mio amico, posso dire quello che voglio? Vai, puoi, scatenati Carlo. Buongiorno. Ciao Mario. Allora, io ho letto, ti seguo, ti voglio bene, ti seguo tutti i giorni, magari non ci sentiamo tutti i giorni, ma sei un mio amico di lunga data. Grande. Ieri hai scritto su Facebook: squalifica di Brown e Hackett è una, due punti, maiuscolo, vergogna. Posso spiegare a chi ci segue, anche perché come te sono appassionato di pallacanestro, amo il basket, ma perché l'ha considerato una vergogna? Prima di tutto non c'erano gli estremi per una squalifica, tanto è vero che il ricorso di Siena verteva proprio sul fatto che le immagini televisive non testimoniavano il non contatto tra i giocatori. Cos'è successo? Che io ho parlato con tanti tifosi molto arrabbiati della decisione. Il fatto è che il referto arbitrale ha scritto quello che ha scritto, poi il giudice a Roma, la federazione, non la Lega, da Roma, a Roma ha stabilito questa sentenza di squalifica di quattro giocatori. Dopodiché, perché ha tolto solo la squalifica a Siena? Perché Varese non ha fatto ricorso. Varese, avendo due giocatori e essendo commutata la pena In stazione pecuniaria? Esatto, solo Siena ha fatto ricorso ed è una cosa tecnicamente assolutamente ammissibile. Tanto è vero, io voglio ricordare il 2007, David Hawkins giocava con Roma nella finale contro Siena in gara 2, venne squalificato per due turni per comportamento irregolaroso nei confronti degli arbitri e per lancio della fascia dei capelli verso gli stessi. Questo era effetto arbitrale, ricorso, immagini televisive dove si faceva vedere che non era così, ridotta la pena da 2 a 1 giornata. Questo lo dico perché non è scandaloso il fatto che ci sia stato ricorso, dato che è tecnicamente possibile. La commissione giudicante, dopo il primo grado di giudizio, si è riunita, ha preso visione delle immagini televisive e di quello che ha scritto Siena, sua discolpa dei giocatori, e ha ritenuto valido il ricorso. Detto questo, posso essere d'accordo che in prima istanza non doveva esserci la squalifica, perché non c'è stato contatto. Il fatto che sia vergognoso, io l'ho detto in quel senso, perché a mio avviso, e poi anche per avviso della commissione giudicante, non essendoci stato contatto, se non al di là dello scontro sì, verbale. Mario, ma però alla fine stiamo sì. Sulla terra. Se allora sono partite piene di adrenalina, piene di stanchezza, serie al meglio delle 7 che a me non piacciono perché costringono i giocatori ad una situazione di stress che non è sopportabile. Allora, se c'è uno scazzo tra giocatori, gli arbitri si girano dall'altra parte, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente grave, cosa esatto. Che non è successa a Varese, allora esatto. Lasci stare, però vietato a tutti toccare questi playoff che sono la cosa più bella che ci è successa negli ultimi 7 anni nella pallacanestro. Quindi vietato a tutti, giudice sportivo compreso. Andrò controcorrente. Però, guarda, io ti dico, sono d'accordo con te, io questa serie è meglio delle 7, tu la contesti, non ti piace, personalmente no. Io la amo, anche se l'aspetto tecnico va a scemare, ovviamente, data la stanchezza. Beh, Mario, perché a 5 cosa cambia? Nulla, però... E allora? No, dire, a 7 tu calcola che se stagione regolare ne fai 30, chi andrà in finale, teoricamente, ne giocherà 21. Ma a me piace tantissimo perché dà grande adrenalina, tu vedi, i palazzetti sono tutti pieni, sì. La risposta dei media è straordinaria, ma gli stessi giocatori, lo vedo, io ho sentito Peppe Poeto, ho parlato con Gigi D'Atome, al di là della stanchezza così immediata c'è l'adrenalina, ti permette di dare grande, insomma, di fare più di quello che potresti fare. Io trovo che sia una serie meravigliosa tra Cantù, guarda Cantù e Roma, no? Ma meravigliosa, però io dico una serie a meglio delle 5 partite senza spremere così fisicamente i giocatori non cambierebbe nulla perché regalerebbe le stesse emozioni, Mario. Ma io credo che il fatto di poter poi ritornare in un campo e nell'altro, nell'eventuale 2-2, renda ancora più... come dire, più incerto, più saporito questa sfida. Insomma, io vedo, tu guarda, anche a livello economico, cosa voglio dire poter ritornare nei palazzetti, riempirlo e quindi fare dei buoni incassi. Tu dirai, beh, meno che ce ne frega, dobbiamo pagare il biglietto. No, io dico che per il movimento, questa visibilità, in un periodo in cui non c'è niente da vedere, i dati d'ascolto sono eloquenti, no? Parlano di un grande successo di questa formula, che ha voluto tra l'altro Sabatini, col voto contrario di Milano e altri. Lo so, anche col mio che non conta niente. Anche il nostro che non conta niente. Senti Mario, io ti voglio bene, adesso ti faccio una domanda difficile. Dimmi qual è la finale, dimmi chi vince lo scudetto. Sai che non ne ho azzeccata una, no? Strano, perché io invece ne ho azzeccate tante. Sai che ci sono gli ascoltatori che mi fanno impazzire e tutte le volte mettono il dito nel costato dove c'è il buco, no? Certo, ma io fin dall'inizio avevo detto che Roma, dopo aver fatto una stagione straordinaria, non mi convinceva, ma già contro Reggio Emilia. Invece si trova alla settima con una Cantù che io invece vedo favorita. Io vedo favorita Cantù, che ha vinto una strepitosa gara 7 a Sassari, ma anche per la lunghezza della panchina, quindi vedo Cantù. Dall'altra parte, stasera mi viene a dire Siena. Però io, anche perché Varese, sai benissimo che ha Brian Dunston con dei problemi al polpaccio. Però è una partita molto strana quella di stasera, e Varese è una squadra dalle mille energie. Mi verrebbe da dire una finale Siena contro Cantù, sì. Però Cantù la do favorita. Allora Mario, facciamo così, tu prendi Siena, io Cantù ti aspetto qui, davanti a me, il giorno dell'assegnazione dello scudetto. Ok, caro. Va bene? Così grazie. Parliamo anche di Mourinho. Ti abbraccio. Grazie Mario Boni.